ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, traduzione di Sergio Corduas. State bene attenti a quello che adesso vi dico. L'Hotel Parigi era così bello che quasi svenni. Tanti specchi e tante ringhiere di ottone, tante maniglie di ottone, tanti candelieri di ottone, così lucidi che somigliava a un palazzo d'oro. E dappertutto tappeti rossi e porte di vetro, tanto che era come un castello. Il signor Brandeis mi accolse subito benevolmente e mi condusse nella mia camera. Era una cameretta provvisoria sotto il tetto della quale c'era una così bella vista di Praga che mi proposi che già per questa vista e camera avrei cercato di restar lì per sempre. E quando aprii la valigia per appendere il frac e la biancheria, aprii un armadio e vedo che è pieno di vestiti. Aprii un secondo armadio e quello era pieno di ombrelli e il terzo armadio era pieno di soprabiti e all'interno, a corde fissate da grandi puntine, erano appese centinaia di cravatte. E come appesi alle grucce i miei vestiti e poi guardai Praga, quei tetti, vidi il castello splendente e come vidi quel castello dei re di Boemia, le lacrime mi scorsero e dimenticai completamente l'hotel La Quiete e ora ero contento che avessero pensato che io volevo rubare il Gesù Bambino di Praga e siccome, anche se il mio capo non l'aveva pensato, ora sarei stato a ripulire i sentieri e a mettere a posto i covoni di fieno e avrei sobbalzato sempre, chi fischia e da dove, perché ora c'ero arrivato, anche il garzone aveva il fischietto e certamente il garzone era il prolungamento degli occhi e il sostituto delle gambe del capo. Ci seguiva e poi fischiava proprio allo stesso modo del capo. Scesi da basso ed era giusto mezzogiorno e c'era il cambio dei camerieri. Anche loro pranzavano. Vedevo che pranzavano con grossi gnocchi di patate lesse col pan grattato, che a tutti in cucina distribuivano quegli gnocchi. E vidi anche il capo che ebbe anche lui quegli gnocchi, come li mangiava in cucina, proprio come la cassiera, soltanto il capocuoco e i suoi aiutanti avevano per pranzo le patate lesse con la buccia. Anche io ebbi quei grossi gnocchi col pan grattato. Il capo mi fece sedere accanto a sé, e mentre mangiavo, mangiava anche lui, ma in qualche modo stacco, un po' come per far vedere se lo posso mangiare io in quanto proprietario, lo potete mangiare anche voi, miei impiegati. E presto si pulì la bocca col tovagliolo e mi portò in sala e per la prima volta mi toccò di distribuire le birre. E così presi al banco i boccali pieni, ne riempii un vassoio intero e per ogni birra davo, come qui era abitudine, un vetrino rosso. E l'anziano maître con i capelli grigi come un compositore di musica mi indicava col mento dove dovevo portare la birra. E poi si limitava ormai a indicarlo con gli occhi. E io non sbagliavo mai. Là dove andavano gli occhi di quel bel maître, sempre là portavo la birra. E dopo un'ora vidi che il vecchio maître mi carezzava con gli occhi e mi faceva capire così che gli piacevo. Questo maître aveva proprio personalità, un attore di cinema nato, un frackman. Non avevo mai visto che un frack stesse bene a qualcuno come a lui. Ed era adatto per quell'ambiente di specchi e anche se mezzodì era passato, qui c'erano luce accesa e lampade a forma di candele. Sotto ciascuna una lampadina, dovunque c'erano gocce di cristallo, sicché mi vedevo allo specchio mentre portavo birre chiare di Pilsen. Vedevo che anch'io ero in qualche modo diverso, che in quegli specchi dovevo correggere la mia idea di essere brutto e piccolino. Qui il frac mi stava bene. Quando mi mettevo accanto al maître che aveva capelli bianchi ricci, come acconciati da un parrucchiere, vedevo nello specchio che nient'altro avrei voluto fare che stare in sala e servire con questo maître che emanava sempre calma. di tutto sapeva, a tutto si dedicava, completava le ordinazioni e sempre sorrideva come se fosse una festa da ballo e organizzasse in casa una festicciola danzante. E sapeva anche chi e dove e a quale tavolo non era ancora stato servito e interveniva. E sapeva anche chi voleva pagare. Nessuno, come avevo visto finora, nessuno doveva alzare una mano e sfregare le dita, né agitare il biglietto con le ordinazioni. Aveva uno strano modo di guardare, come se guardasse da lontano una gran folla di persone, o guardasse un paesaggio da una torre panoramica, o il mare da un piroscafo, come se non guardasse da nessuna parte, perché ogni movimento di un cliente e dei clienti gli diceva immediatamente che cosa il cliente poteva desiderare oppure cosa desiderava. E subito mi accorsi che al maître non piaceva il cameriere. Già con gli occhi lo rimproverava di aver sbagliato piatti e portato il maiale al tavolo 11 invece che al tavolo 6. E così diventai cameriere di sala sotto la direzione del maître Scrivanek. Eravamo lì in due camerieri, ma io soltanto avevo il diritto di stare appoggiato con la schiena al tavolo nella stanzetta di servizio quando dopo mezzodì c'era un po' di tempo libero. E il maître mi diceva che io sarei stato un buon maître, ma che dovevo coltivare la capacità, quando entrava un cliente, di ricordarmelo e di sapere quando andava via, non a mezzogiorno quando c'è il guardaroba, ma al pomeriggio quando si serve nel caffè, per imparare a riconoscere quelli che vogliono soltanto mangiare e andarsene inosservati senza pagare, per riuscire anche a valutare quanti soldi ha il cliente e se spende o dovrebbe spendere in conseguenza. Questa, diceva, è l'essenza del buon maître. E così, quando fu il momento, il maître mi spiegava a bassa voce che cliente era appena entrato e che cliente stava giusto uscendo. Mi addestrò così alcune settimane, finché mi azzardai a indovinare io stesso. Non vedevo l'ora che venisse il pomeriggio, come se stessi facendo una spedizione avventurosa. Ero eccitato come i cacciatori quando fanno la posta alla selvaggina, e il maître o fumava, teneva gli occhi socchiusi e annuiva soddisfatto, o scuoteva la testa e mi correggeva e andava lui stesso e mi dimostrava sul cliente che aveva ragione lui. E infatti la ragione ce l'aveva sempre. Davvero? E io così veni a sapere per la prima volta quando posi al maître la domanda complessiva. «Ma come fa a sapere tutto questo?» E rispose mettendosi dritto. «Perché io ho servito il re d'Inghilterra». «Il re?» Battei le mani. «Per Cristo re, lei ha servito il re d'Inghilterra!» E il maître annuì col capo, tutto soddisfatto. E così entrammo nella seconda fase, che mi portò all'entusiasmo. Qualcosa come la lotteria di gruppo, quando aspettate se vi esce il numero del vostro biglietto, come la tombola, o nei veglioni o nelle feste pubbliche. Quando il pomeriggio entrò un cliente, il maître annuì ed entrammo nella stanzetta, e io dissi, «È un italiano». E il maître fece di no con la testa e disse, «È uno jugoslavo, di Spalato o di Dubrovnik». E ci guardammo un momento negli occhi, e poi annuimmo. E io misi 20 corone e lo stesso il maître sul vassoio in quella stanzetta. e andai a domandare che cosa desiderava il cliente, e dopo aver preso l'ordinazione, quando stavo tornando, il maître, vedendo la mia faccia, arraffò le 2 venti corone e le ripose in un enorme portafoglio per il quale aveva nei pantaloni una tasca bordata con la stessa pelle di quel portafoglio, e io mi meravigliai. «Come mai il signor maître lo riconosce?» A lui disse, «con modestia, ho servito il re d'Inghilterra». E così scommettevamo, e io perdevo sempre. Però il maître continuava a insegnarmi. Se voglio essere un buon maître, devo riconoscere non soltanto la nazionalità, ma anche che cosa prenderà il cliente. E mentre un cliente scendeva nel ristorante, annuimmo, entrammo nella stanzetta e gli mettemmo ognuno un biglietto da 20 sul tavolino di servizio. E io dissi che il cliente avrebbe preso la minestra di goulash o quella speciale di trippa. E il maître disse che il cliente avrebbe preso un tè e pane tostato senza aglio. E così andai a prendere l'ordinazione. E quando augurai buon mattino e domandai che cosa desidera il signore, ordinò davvero tè col pane tostato. E mentre stavo tornando, il maître si prese le 2 venti corone e mi disse, «Devi riconoscere subito uno con la colecistite. Guarda un po' il cliente. Questo forse è anche il fegato a pezzi». E altre volte prevedevo che il cliente avrebbe preso tè e pane e burro, e il maître affermava che avrebbe preso sciunca di Praga col cetriolo e un boccale di Pilsen. E infatti, sì, avevo appena preso l'ordinazione, mi ero voltato, e il maître, vedendomi venire, mi guardò, alzò lo sportello e gridò in cucina al posto mio, «Una sciunca di Praga!» E quando arrivai aggiunse, «È anche un cetriolo!» E io ero felice di poter imparare in questo modo. È vero che spendevo così tutte le mance, perché quando solo potevamo scommettevamo e io perdevo sempre. Ma domandavo sempre, «Come fa, signor maître, a sapere tutto questo?» E lui riponeva le 2 venti corone nel portafoglio e diceva, «Ho servito il re d'Inghilterra». E così, dopo Karel e ancora prima, avevo conosciuto anche il maître Zdenek, quello a cui piaceva svegliare di notte il paese e spendere tutti i soldi come se fosse un aristocratico fallito. E solo qui mi ricordai anche del maître del Città d'Oro di Praga. Quel mio primo maître mi apparve a un tratto. Si chiamava Malek. E quello era molto parsimonioso. Nessuno sapeva dove metteva i soldi, ognuno sapeva che li aveva, che ne doveva avere tanti, che certamente risparmiava per un qualche alberghetto e che quando avrebbe smesso di fare il maître, quell'alberghetto da qualche parte se lo sarebbe comprato o affittato. Ma la cosa era abbastanza diversa. Una volta mi confidò, c'eravamo ubriacati a un matrimonio, e lui era di umore tutto tenero, e mi disse, e poi mostrò, che 18 anni prima la moglie l'aveva mandato a portare un messaggio a un'amica, e così suonò lì. Si aprì la porta. C'era una bella donna, lei arrossì e lui pure, e così stavano sulla porta, turbati. Lei reggeva un ricamo, e così entrò. Non disse nulla, ma la abbracciò. E lei continuava a ricamare, e poi lui scivolò sul canapè, e lei dietro la sua schiena continuava a ricamare, e lui la prese come fa un uomo, così mi disse. E da quel momento si era innamorato e risparmiava, e in quei 18 anni aveva ormai 100.000 corone per le spese e la tranquillità della famiglia, moglie e figli. Il prossimo anno gli avrebbe dato una casetta, e poi sarebbe andato, lui, ormai coi capelli grigi, dietro alla propria felicità con la sua beltà dai capelli ormai grigi. Questo mi raccontò, e poi aprì la scrivania, e quella aveva ancora un doppio fondo, e lì erano riposte quelle banconote da 100. Tutto ciò serviva per riguadagnare la propria felicità, e io guardavo, e non l'avrei mai detto, guardavo le sue scarpe. Aveva una gamba dei pantaloni un poco tirata su e portava dei mutandoni antiquati, legati più giù al di sopra della caviglia con un laccetto bianco, cucito sull'orlo della gamba dei pantaloni. E quei mutandoni era come se fossero della mia infanzia, quando stavo dalla nonna nei mulini di città, dove i viaggiatori gettavano giù dai gabinetti dei bagni Carlo la biancheria. Una volta proprio dei mutandoni uguali si aprirono e restarono sospesi per un attimo in aria. Così tutti i metri erano uno diverso dall'altro, e questo male, che ci doveva apparve a un tratto accanto al maître dell'Hotel Parigi, e questo male che mi sembrava quasi un santo, come il pittore e poeta Jodl che vendeva la vita di Gesù Cristo e si toglieva e metteva il cappotto o il soprabito ed era sempre cosparso di polverine e le labbra le aveva spalmate di un liquido giallo per come beveva quella sua neurastenina. Che sarà un giorno di me? Così ogni giovedì ora serviva i borsisti. E come tutti i ricchi, anche questi borsisti erano giocosi e allegri come cuccioli, e quando gli riusciva qualche negozio erano capaci di spendere e distribuire banconote come dei macellai che avevano vinto a Farber. Ma quei macellai che giocavano a colore finivano più o meno così, che tornavano a casa 3 giorni dopo senza calesse, senza cavalli, senza il bestiame che avevano comprato, avevano perduto tutto a Farber. Venivano a casa col solo frustino. Allo stesso modo questi borsisti a volte perdevano, e anche loro perdevano tutto. Anche loro sedevano in una chambre separée e guardavano il mondo come Geremia guardava Gerusalemme in fiamme. Alla fine spendevano ancora i soldi che ormai metteva quello che in borsa aveva vinto, un terno all'otto era. E io poi, piano piano, diventavo anche il confidente delle signorine che nel caffè aspettavano la chiusura della borsa per mettersi in ordine e scendere poi giù, in chambre separée. Tanto faceva lo stesso se erano le 11 di mattina o era pomeriggio, quando già faceva buio, oppure notte profonda o mattino. Nell'Hotel Parigi c'era la luce accesa fin dal mattino, l'albergo era tutto illuminato, come un lampadario che avete dimenticato di spegnere. Di tutte mi piacevano chambre separée che le signorine chiamavano gabinetto di visitazione, padiglione di visite, reparto internistico. Mentre i borsisti, che avevano ancora forze, tentavano di ubriacare nel modo più breve le signorine e poi spogliarle lentamente delle camicette e delle gonne e poi si rotolavano con loro sui cuscini dei divani e sulle poltrone, così come Dio li aveva fatti, e quei borsisti finivano del tutto esausti, a volte sembrava che dopo quell'amore avessero avuto un qualche attacco di cuore. Tanto quel far l'amore in posizioni non comuni li aveva distrutti. Così nel reparto internistico, o nel cosiddetto padiglione di visite, c'era sempre allegria. Le ragazze cui capitava il compito di animare i clienti lo apprezzavano sempre perché qui, come vedevo, guadagnavano di più. E quei borsisti anziani ridevano e scherzavano sempre e prendevano quello spogliarsi delle signorine come un gioco collettivo coi pegni, lentamente, senza smettere di sorseggiare e annusare i calici di cristallo con lo champagne o il cognac. Spogliavano la signorina direttamente sul tavolo, dove poi la signorina si metteva da sola e i borsisti tenevano attorno al suo corpo i bicchieri e le coppe col caviale e l'insalata. Salata e salame ungherese, si mettevano gli occhiali e esaminavano ogni piega di quel bel corpo di donna e come una sfilata di abiti o nell'atelier di un'accademia di pittura pregavano la fanciulla di sedersi, mettersi in piedi, inginocchiarsi, di lasciar pendere le gambe dal tavolo e di ciondolare con i piedini nudi, come se stesse lavandosi in un torrente. E mai questi borsisti litigavano per quali membra erano rivolte a loro. Qualche parte del corpo stava loro vicino, ognuno con un grande entusiasmo che somigliava all'entusiasmo di un paesaggista, di un pittore che traspone sulla tela ciò che nel paesaggio lo eccita. Così questi anziani con un entusiasmo senza fine esaminavano da vicino e attraverso gli occhiali ora un gomito piegato, ora un ciuffo di capelli sfuggito in basso, ora il collo e la caviglia del piede e poi ancora la pancia. Un altro poi apriva un poco le belle metà del sedere e con infantile ammirazione guardava ciò che stava appunto vedendo. Un altro ancora gridava di entusiasmo e guardava il soffitto come se ringraziasse Dio in persona, perché poteva guardare dentro le gambe spalancate della signorina e toccava con le dita o la bocca quel che più gli piaceva. Così questa chambre séparée brillava non soltanto per la luce violenta che dal soffitto scendeva attraverso l'imbuto del lampadario in pergamena, ma anche per i bicchieri in movimento e soprattutto per il brillio di quattro paia di lenti di occhiali che si muovevano come pesciolini a pinne velate in un acquario illuminato. Saziati gli sguardi, quei borsisti finivano la visitazione, versavano champagne alla signorina e lei sedeva sul tavolo e brindavano con lei. Le si rivolgevano col nome e lei prendeva dal tavolo quel che voleva e gli anziani signori scherzavano ed erano galanti, mentre nelle altre chambre separate risuonava un riso allegro, talvolta trapassava in silenzio, sinché spesso pensavo che in quel momento avrei dovuto precipitarmi dentro. Sicuramente lì c'era un cadavere o un borsista moribondo. E poi coi miei anziani vestivano la signorina, come una pellicola che si riavvolge, come l'avevano svestita, ora la vestivano. Niente di quella indifferenza che sopravviene sempre dopo, con la mancanza di interesse, ma sempre la stessa galanteria che c'era all'inizio. E quando pagavano, pagava sempre un solo borsista, davano la mancia al maître e io ricevevo sempre un biglietto da 100. Se ne andavano raggianti, soddisfatti, pieni di belle immagini che gli bastavano sempre per una settimana. Già dal lunedì fremevano per come avrebbero fatto giovedì la visitazione a un'altra signorina, perché questi clienti non visitavano mai la stessa signorina due volte, bensì ogni volta una diversa. Forse per acquistar fama nel demimonde delle prostitute praghesi. Ma ogni volta la signorina, quella che avevano visitato, restava nella chambre séparée. Aspettava. E quando avevo sparecchiato il tavolo e portato via l'ultima posata, lo sapevo fin dall'inizio che quello che sarebbe avvenuto qui era ormai un'abitudine. Mi guardava avidamente, come se fossi un attore del cinema. Quella signorina era così eccitata dalla visitazione, respirava così forte, che non era capace di andar via. E così avvenne la prima volta, e poi ogni giovedì, che io dovevo finire quel che i vecchietti avevano cominciato. Tutte le volte e tutte le signorine si gettavano su di me con tanta passione, mi si davano con tanta cupidigia come se fosse la prima volta. E io in quel paio di minuti mi sentivo bello e alto e riccioluto. Avevo non l'impressione, non la sensazione, bensì la certezza di essere il re di quelle belle signorine. ma era perché con la visitazione il loro corpo era stato tanto solleticato con gli occhi, le mani e la lingua che non riuscivano quelle signorine dopo quella visita a camminare. Soltanto quando sentivo che una volta e due volte avevano raggiunto l'orgasmo, come riprendevano vita. Gli occhi ritornavano e l'erba che avevano al posto degli occhi scompariva. La nube nella quale erano state spinte si dissolveva e avevano di nuovo uno sguardo normale, e io ero nuovamente per loro un cameriere piccolino, qualcuno che in sostituzione di un altro bello e forte aveva eseguito per un ordine quello che io eseguivo ogni giovedì con gusto e scioltezza sempre maggiori, poiché questo fatto era stato già del cameriere prescelto prima di me, Karel, che aveva per questo abilità e capacità e amore, ma quest'ultimo lo avevo anch'io. E probabilmente ero bravo anche in altre cose, perché tutte le signorine mi salutavano per prime, quando mi incontravano nel locale o per strada, già da lontano mi facevano inchini, già da lontano, quando mi vedevano, agitavano il fazzoletto o la borsetta, e se non avevano in mano niente, mi davano almeno la manina amichevolmente. E io gli facevo l'inchino, oppure con un ampio movimento del cappello mi inchinavo con devozione e poi mi raddrizzavo e alzavo il mento per essere per me stesso più alto sulle suole doppie, per essere più alto di quel paio di centimetri. E così cominciai a tenere a me stesso più di quanto dovevo. Quando ero libero mi vestivo, mi ero innamorato delle cravatte. Una cravatta, solo quella fa l'abito, e l'abito poi fa l'uomo. E io mi compravo cravatte. Vidi che cravatte così le avevano anche i nostri clienti, e non mi bastava. Continuavo a ricordare. E col ricordo, aprivo quell'armadio con gli oggetti e i vestiti che avevano dimenticato da noi in albergo i nostri clienti. E lì vedevo cravatte, quali non avevo visto mai in nessun luogo. Cravatte che avevano a un sottile filo un'etichetta. E una cravatta l'aveva dimenticata qui Alfred Carniol, un grossista di Damasco, e un'altra Salomon Piovati, delegato generale di Los Angeles, e un'altra Jonathan Chapliner, proprietario di una filanda di Lvov, e una quarta e una quinta, dozzine intere di cravatte. E io desideravo questo, annodarmi una cravatta così, e così non pensavo a nient'altro che a quell'unica cravatta. Potevo scegliere fra tre. La prima era azzurra come di metallo, la seconda rosso scuro, della stessa stoffa di quella azzurra, brillavano come elitre di insetti rari o ali di farfalle. Ah, una giacca estiva sbottonata appena con la mano in tasca, e dal collo alla vita una cravatta così che pende qualità e ammirazione. Quando per prova me l'annodai allo specchio nemmeno respiravo. Vedevo quelle cravatte non su di me, ma mi guardavo e mi vedevo camminare per piazza Venceslao e Narodni Trida, e a un tratto presi paura. Incontro a me venivo io. Vedevo che anche gli altri, soprattutto quelli con vestiti eleganti, sobbalzavano per la mia bella cravatta, che non avevano visto mai in nessun luogo e a nessuno, e io procedevo, con noncuranza, con quella giacca sbottonata, affinché tutti gli esperti vedessero quella cravatta. Ma alla porta delle Polveri, dove ero arrivato per poter percorrere nuovamente con maggior sicurezza corso Napri Kopec, e quando stavo quasi per esultare per quel mio abito con così pochi accessori, mi veniva incontro nel cappuccio bianco, le sue vecchi capelli, il mio maître dell'albergo. Il signor Scrivanek camminava, non mi guardava, ma io sapevo che mi vedeva. Mi sorpassò e io mi fermai, come se mi avesse rivolto la parola. Guardavo il signor Scrivanek e anche lui si era fermato. Si voltò e ritornò verso di me. Mi guardava negli occhi e io vidi che di me vedeva soltanto quella cravatta, che vedeva come la bianca cravatta camminava per corso Napri Kopec. Nient'altro che una cravatta che cammina. E il maître, che tutto sapeva, mi guardava come uno che sa da dove viene quella cravatta, che sa che l'avevo presa in prestito, senza permesso. Mi guardava, e io fra me e me mi dicevo: «Ma come fa, signor maître, a sapere tutto?» E lui scoppiò a ridere, e rispose ad alta voce: «Come lo so, ma io ho servito il re d'Inghilterra!» E continuò a camminare per il corso. E sebbene brillasse il sole, fu come se venisse buio, come se fosse un lucignolo acceso, e come se il maître mi tirasse giù lo stoppino, come se fossi uno pneumatico gonfio al quale il signor Scrivanek aveva aperto la valvola. Camminavo e sentivo come sfuggiva da me l'aria. Vedevo come non illuminavo più io la strada, che non vedevo più,